Radio 24 Reportage. L'eredità della passione. I giovani rinnovano l'agricoltura. Di Paola Anania. Più che un ritorno alla terra è la riscoperta di una passione sempre esistita, ereditata dai padri e dai nonni o coltivata nelle aule di una scuola e dell'università. I giovani agricoltori non sono affatto come te li aspetti o come se li aspetta lo stereotipo degli uomini nei campi, mani sporche e idee limitate. Hanno, al contrario, mente fine e voglia di migliorare, come Vincenzo Netti, 35 anni, imprenditore agricolo pugliese, figlio e nipote di agricoltori. Per 10 anni ho fatto esattamente quello che hanno fatto i miei genitori, i miei nonni, quindi quella roba lì. Poi arriva il 2010 che non è un anno facile. Arriva il 2010 che non è sicuramente un anno facile, un anno dove già si aveva sentore di quello che sarebbe accaduto. Decido che il settore delle rinnovabili è il settore che può integrarsi in modo più compiuto e più positivo possibile con quello dell'agricoltura. E questo quindi mi ha spinto a introdurre nella mia azienda agricola tecnologie verdi, quindi della produzione elettrica da fonte rinnovabile, come mini eolico, solari, per esempio. Mini eolico fotovoltaico in primis. Ma non contento, sono andato oltre, mi sono a un certo punto mi sono posto l'obiettivo di essere quanto più a impatto zero, quindi produrmi in azienda tutta l'energia di cui ho bisogno. Quindi il vantaggio è innanzitutto risparmio, certo. E poi diciamo ecologia, no? Rispetto il vantaggio è risparmio economico, rispetto per l'ambiente e anche la riscoperta di un valore etico, ossia è vero che l'energia oggi me la autoproduco, ma proprio perché me la autoproduco e so quanto è difficile autoprodursela, ho imparato io per primo a non sprecarla. Vincenzo Netti gestisce un'azienda di famiglia, ma i giovani agricoltori vengono anche da percorsi diversi. Luca Brunelli, presidente AGIA, Associazione Giovani Imprenditori Agricoli. I giovani agricoltori li dividerei in 3 tipologie. C'è chiaramente chi vive nella famiglia agricola, quindi che ha questa conoscenza che viene dalla famiglia e quindi ripropone un percorso di questa realtà. C'è quell'imprenditore agricolo che proviene dal mondo dello studio dell'imprenditoria agricola, quindi dalle università, dagli istituti tecnici, eccetera. E lì ci vuole una maggiore attenzione perché lì nascono le maggiori difficoltà, lì si tocca con mano che occorre terra, occorre credito, occorrono tutte quelle condizioni per far partire un'impresa in agricoltura. Poi c'è il terzo elemento, ci sono tanti operatori di altri settori, noi abbiamo la presidente della Toscana che lavorava in banca, abbiamo altri giovani imprenditori delusi da altri mondi, da altri settori che invece hanno trovato in agricoltura un ascolto, un'aspettativa e una soluzione. Alla terra si arriva dunque da strade diverse. Chiara Innocenti, per esempio, ha lasciato la sua vita milanese per il richiamo della Toscana. Sono imprenditrice agricola dalla fine del 2008. Prima del 2008 io in effetti lavoravo in banca a Milano e ora invece faccio la viticoltrice in Toscana. A un certo punto molli la banca a Milano perché? Allora, mollo la banca a Milano perché era da tantissimo tempo che con una mia carissima amica dei tempi dell'università avevamo voglia di fare qualcosa insieme e qualcosa di nostro. E purtroppo la crisi stava iniziando a incombere anche nell'azienda dove lavoravo io, quindi si parlava di riduzioni dell'organico, insomma il clima non era così bello e quindi abbiamo colto la palla al balzo. Io per venire via da una situazione che non era più così felice e lei perché aveva bisogno di riavvicinarsi alla Toscana e quindi ci siamo unite, abbiamo fatto una società con le sue competenze di enologa, le mie competenze sono laureate in economia e commercio, quindi più della parte amministrativa e gestionale e ora facciamo questo. Sei soddisfatta di questa scelta? Assolutamente, diciamo abbiamo smesso di dormire di notte perché è chiaro che poi quando lavori in una cosa che è tua non ci dormi più di notte perché hai la responsabilità di tutta un'azienda sulle spalle, noi abbiamo un paio di dipendenti, però sì, assolutamente soddisfatti. Tunia, che è appunto il nome dell'azienda, ormai è la nostra vita a tutti gli effetti. In un momento in cui il lavoro manca, soprattutto per i giovani, l'agricoltura è una piccola isola felice. Secondo la Coldiretti, nel 2012 gli occupati sono cresciuti del 3,6% e un dipendente su 4 ha meno di 40 anni. Aumentano anche le iscrizioni negli istituti professionali agricoli. Ancora Chiara. In generale il settore agricolo sta risentendo della crisi, nel senso che sta diventando un po' un ammortizzatore sociale, nel senso che molte persone estromesse da altri settori a causa della crisi si stanno dedicando all'agricoltura, ad esempio riprendendo, che ne so, le aziende dei nonni che i genitori invece avevano abbandonato, e quindi i nipoti poi le riniziano a gestire. Altri reinventandosi imprenditori, un po' come è successo a noi. C'è un aumento esponenziale del numero di curriculum che ci arrivano via posta, persone che ci telefonano. La crisi ha spinto Chiara a mollare tutto e a ricominciare altrove. E non ha spaventato Francesco Ferretti, 29 anni, che nel 2011 si è rimboccato le maniche e ha aperto un caseificio a Perugia insieme al fratello minore. Io lavoravo, avevo un contratto a tempo indeterminato, quindi ero sistemato, tra virgolette, non avevo neanche bisogno, se vuoi, di andare oltre, quindi diciamo di uscire dalla mia zona di comfort. Quello che ho fatto è stato seguire questa passione e cercare appunto di costruirmi qual era la vita che volevo avere, quindi diciamo renderla più piena, più viva e più affascinante. Grande passione, mi sembra di capire, sei contento? Sì, anche grandi sacrifici, perché bisogna lavorare ininterrottamente, insomma c'è mio fratello che adesso comincia prima la notte, verso le 11, mezzanotte, perché la mozzarella per essere pronta la mattina deve iniziare la notte, poi gli do il cambio e tutto il giorno comunque siamo impegnati anche per la vendita e poi la parte amministrativa. Tu e tuo fratello, dicevamo, giovanissimi, i vostri coetanei come reagiscono quando raccontate la vostra attività? Rimangono affascinati, ci chiedono sempre maggiori informazioni, approfondiscono, ma stesso il nostro gruppo di lavoro, noi siamo comunque, abbiamo un'età media di 27 anni, quindi abbiamo ragazzi e ragazze molto giovani che credono nel progetto e che sono proprio che hanno questa voglia di fare, di rimboccarsi le maniche, quindi diciamo sicuramente anche tra i giovani c'è una grande voglia di far bene, di spirito di sacrificio, di abnegazione, e non è vero quindi che tutti gli italiani, no, fino ai 30 anni sono mammoni, un po' per esigenza se vuoi, un po' anche perché gli piace e vogliono continuare a vivere bene. Le storie dei giovani imprenditori agricoli sono fatte di fatica, sfide e soddisfazioni. 10 anni fa Alessio Logi ha iniziato dalla sua Toscana con un pezzo di terra e qualche vecchio attrezzo. Abbiamo iniziato con niente, insomma, veramente una pompa, un torchio e una diraspatriciaccia, proprio di quelle proprio che oggi quando ci penso, ti dico la verità, insomma, in quel momento mi vergognavo un po'. Mi vergognavo un po' perché comunque vedi tutte queste aziende strutturate, tutte queste aziende che comunque a livello di immagine sono belle, insomma, e io dico, partire con questi 4 attrezzi, 2 erano usati, vabbè, insomma siamo partiti, oggi però lo racconto con molto orgoglio. Ho seminato un po' negli anni scorsi, adesso insomma si incomincia a raccogliere qualche frutto. Mi ricordo il 2003-2004 quando provi, vai a cercare qualche agente per iniziare a vendere le tue bottiglie, perché cominciano a essere un po' di più e tutti ti chiedono, ma te chi sei? Sei nessuno, e tutti ti chiudono le porte in faccia. Adesso, però, piano. Adesso qualche piccola soddisfazione e rivincita, devo dire che invece qualcuno che te l'aveva chiusa adesso è tornato a cercarti e te magari l'hai detto, guarda grazie, ma sono in questo momento già a posto io in quella zona. Le quindi, soddisfazioni insomma, qualche, del mestiere. Qualche sassolino dalla scarpa. Nel lavoro dei campi c'è il sudore della fronte accanto allo studio e alla capacità di confrontarsi con innovazione e tecnologia. Daniela Giarin, 28 anni, imprenditrice veneta del miele. La maggior parte dei giovani che si insediano ormai sono diplomati, laureati, quindi anche la cultura in agricoltura sta crescendo moltissimo, cosa che prima invece erano i contadini, proprio che considerato contadino una persona anche ignorante, un po' grezza, invece adesso sta proprio rivoluzionando la è un'altra dimensione. Esatto. E soprattutto mi sembra un settore in cui i più giovani riescono ad esprimersi meglio, questa almeno è una mia sensazione superficiale, tu che ne pensi? Penso che l'agricoltura abbia un grandissimo bisogno di giovani, quindi si sta dando tanto spazio ai giovani. Dal Veneto di Daniela alla Calabria di Giulia Spanò, imprenditrice di Corigliano Calabro. Ho sempre avuto questa passione appunto per l'agricoltura, per il mio territorio, per la mia Calabria, per il lavoro etico, per l'orgoglio della mia gente, delle donne. Senti, quanto è difficile o è stato difficile essere donna, imprenditrice e giovane? È stato molto difficile, la cosa che mi è stata detta, mi sono stati fatti dei complimenti e mi è stato detto che io all'inizio stavo conducendo la mia azienda da uomo. Allora io ho fatto notare a queste persone perché li ringraziavo per il gentile complimento, però che io ci tenevo a portare avanti la mia azienda da donna. La sfida dei giovani imprenditori agricoli è quella di crescere, farsi conoscere, potenziarsi e guardare all'estero. La strada è lunga, le difficoltà ci sono, ma la voglia e le energie non mancano. La ripresa, dicono, passa anche e soprattutto dalla terra. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.